Mangiandomi il gelato fuori mi sono tolto anche la giacca e sono rimasto con una camicia che è moderatamente felpata, sì, invernale no, però leggermente felpata, anche sottile mi, perché io poi sono sempre in calore, lo sai, no, c'ho queste caldane che mi vengono. Bene, Natalino c'è ancora, che è in bianco da un po'. Sì, non ne ho tanta voglia di parlare, no, mi sto ascoltando al mare. Poco fa c'avevo anche i dolori. Dare, ok. Chi è questa? Sembra quei taxi russi, mi. Mia. Esatto, ho avuto la stessa impressione. Infatti quello che ho detto che non ce l'ha freddo, ho detto Marco vuoi calori, perché io sto crepando di freddo, ma freddo, c'ho i piedi ghiacciati e le mani ghiacciate, ci ho messo una coperta felpata sopra di quell'impaio. Quelle sono calde, eppure voglio prendere una testa. Ma quelle sono la mare che cose. Ehi, guarda, se fai entrare aria tiepida, vabbè, dovevi farlo di mattina. Dipende già, dipende anche come ti senti tu il giorno. Comunque ieri notte avevo freddo, infatti ho detto, ma tappati stanotte, scopriti bene, anch'io mi sono tappato bene, avevo acceso anche la stufetta elettrica perché, vabbè, io sono andato a dormire che era il cuore della notte, no? Però come mi sono spogliato, no? E ho messo il pigiama, avevo freddo. Io quel passaggio lì lo temo, lo sai. Manuè, la modulazione, dimmi se è limpida o se senti qualche imperfezione. Ma no, è perfetta Marco, è bella chiara. 747 alias 203, è sempre fermo lì a far polvere, ogni tanto lo devo usare, no? Se no la roba si rovina a non usarla. Bella, bella modulazione, va benissimo. Karashov, sposare italiano, sposare italiano, italiani fava molto grande. Oh yeah. Comunque è un lavoraccio, no, già, quello è un lavoraccio, perché non c'ha la testa, a parte che devi avere anche il cuore, se non c'è il cuore è meglio che non ne fai questo lavoro. Coraggio devi avere. E coraggio soprattutto. Ho capito, coraggio. Sono lavori brutti, ma devi stare attento, ben attento. Ma fossero stati brutti e ben retribuiti, uno ci avrebbe anche fatto un pescerino, ma sono anche mal retribuiti, il fatto è quello. Sono pagati così. Mi adesso all'Auscia hanno aperto un'altra azienda, hanno messo un corpo di guardia, all'Alme System, e da New York una ragazza lì. Ma Auchan, ex Auchan? No, dove c'è il fornitore? Di fronte. Dove c'è a fianco il paninoteca, cosa c'è? Non è più Auchan, come si chiama già? Illuminami, anch'io lo chiamo Auchan, però non è in realtà più gestito da loro. È la Conad. Ah, è la Conad, vabbè, io lo chiamo Auchan, va bene. Beh, la Conad, sì. Io non riesco a capire come l'abbiano chiuso, facciamo le soldi a parate, buh. Ma cosa ne so? Ma Olbia c'è sempre. Già, secondo me, per esempio la luce, cioè immaginati di luce una struttura del genere quanto poteva pagare. Poi avevano più merce di quanta se ne potesse umanamente vendere. Lo moltiplicano per tutti i centri commerciali, tutti i cinesi che hanno roba da buttarne, cioè producono più di quanto si possa consumare. È spaventoso, guarda, il volume di merce che hanno questi grandi centri. E secondo te perché? Perché? Scusate se sono entrato col piede. Non è che deve fornire solo Sassari, no? Anche il dintorno deve fornire, non solo Sassari. Antonio, ti sento male, sei come saturo. Non so se dipende da me. La Maria di Bombay. Ma sei cazzo Bombay, sei tutto il sudato, no? Sei saturazione. Sei spento, ma prima il barburo, c'è, no? No, entro, adesso è più alta la modulazione, però c'è una saturazione, la modulazione non le limpida, sente proprio questo, questa saturazione, punto. Però parte il microfono, ammassa il microfono. Guarda ora, va meglio. Non è chiara chiara la radio, Si capisce, ma non è chiara chiara come deve essere. Quella di Marco puoi dire limpida, la senti com'è. La tua rimane un po'... non gracchiante, però non è limpida. Non lo so, io sto spento qua, non sto attaccando nulla. Prova a staccarti un po' il microfono alla bocca, vedi? Il testo è compulsato un gioco, già, aspetta, proviamo. Hola, va meglio con te. Anto, non è che hai stazionari, Assolutamente no. Controllati il PL dell'antenna. PL dell'antenna, ma pure il capo del mio nome. Fammi vedere. Sta a posto, non c'è niente. Boh, aspetta se mi riaccende l'altro apparecchio, proviamo con l'altro apparecchio. Perché appare che sei uscito? No, rossa la polvere è questa, no? E cazzo mi resti, cazzo di imbecille. Prova a vedere, ora va meglio. Rossa la polvere è questa, no? Aspetta. Adesso va bene. Un po' caretto di graziato, è un po' fuori frequenza il condotto. Ora. Tappa. Comunque già sì, io lo voglio approntare, un borsino con un baracchino, metto quello senza smitter, con l'M93 o M95, e un'antenna, guarda, ci metto quella base magnetica col cavo mezzo schiacciato, almeno se la rubano pazienza, e quell'antenna andante della Telecom LS145, quella che performa un po' meno ma è sempre 1,5 metri, questo se la rubano pazienza. Ma io l'avrei lasciato ufficio, tutto. Oh, Gianni, tu hai il cortile condominiale ed è già tanto, per quanto sia aperto, credo che, a meno che non abbiate il cancello elettrico adesso, o prima, boh, non lo so, ma lasciate in strada, si portano via tutto, qua ci passano i tossici che quando sono in astinenza rubano qualsiasi cosa ci sia rubabile, trovate le piantine dalle palazzine, di tutto fregano, tutto. Fatta con una bucirata. Cioè loro quando c'hanno la scimmia vedono che ne so delle monete nel portaoggetti della macchina, loro c'hanno bisogno, ci spaccano il vetro, non si fanno problemi e si pigliano le monetine, capito? E ti fanno molto più danno che non quello che devono rubare. A me mi avevano spaccato il vetro della macchina, avevano rubato un pacchetto di sigarette, l'accendino e un paio di cassette, che allora c'era lo stereo con le cassette. Fuori di gabbo. E una volta invece, sai cosa mi hanno rubato? Tantissimi anni fa dalla 1. A parte che la aprivi con qualsiasi spadino, no? Hanno aperto la portiera e si sono rubati le caramelle, il pacchetto di caramelle che tenevo nel portaoggetti. Che poi mi avevano detto che era stato all'epoca un giovanissimo, all'epoca era Barbone, Robertino Beligabelli. Oh mio. Perché rubava quello? Cosa ne so, cioè c'era tanto da rubare, c'era l'autorale volendo, niente, le caramelle, voleva le caramelle, così mi hanno detto, che hanno visto che era lui che girava intorno e ci ha fregato le caramelle, meglio quelle che altro. Ma io potevo capire se fosse un bambino, ma avuto una persona là. Io mi ricordo bene i capelli quando lo portavamo in ambulanza, aprivamo tutti quanti i vetri perché volavano i pidocchi, cazzo, allucinante, respiratori, perché c'era pieno di pidocchi. Io me lo ricordo in condizioni pessime, seduto qui al triangolo, col vino tutto vomitato, tutta la barba e la maglietta vomitata di vino. Mamma mia, non potevi avvicinarti dal tanfo. Poi si avvicinava, aveva la bicicletta, allora me lo ricordo bene. Adesso c'è la moto, ma prima aveva la bicicletta. A vedere che la bicicletta, se no non cammina. Ho vedato, Gianfranco, poi non pulla da voi. io no, non so fare bene, c'è un amico che lo fa uguale. Ho detto franchi, capito, già ce l'hai 100 franchi, 100 lire, fa una ampulla per da voi, per una bottiglia per dopo. Si prendeva sicuro. Oppure diceva spesso, cacca che la sabato, pagami lo principale mio, perché che lavoro fai? Le ho detto. Vai Emanuele. Ma ora si è preso, sta mangiando salsicce e formaggio. Ho detto lui, e adesso è presto ancora, poi già mi rifaccio. E poi l'avevano, mi pare, in occasione che l'avevano picchiato a tradimento, perché carogne, cioè cosa, è come sparare sulla Croce Rossa, l'avevano portato al pronto soccorso, tutto ripulito, tosato e tutto, e si era messo un po' in ordine. E avevo lavorato anche al bandiera gialla, lui mi pare, come cuoco, ho potuto fare quello che è. Allora lavapiatti? Però diciamo si era messo un po' in sesto, poi però non so cosa fare adesso, andavo per strada a vendere piccoli oggettini, portachiavi, quelle minchiate lì. Arriva CD. Aspetta, invece che Antenna 1 diceva, non me lo ricordo, la pubblicità che faceva, invece che Antenna 1 diceva un'altra cosa. Questo bene mi sentite? Sì. Ho cambiato radio. Sicuramente, cosa stavi usando? Superdrama, sicuramente può fare che cosa, brava. Si era spostato di frequenza, magari se lo adatterà. Ma non è che ieri era con voi sul 15 più 8 kHz anche lui? Io già mi sono dovuto assentare di botto perché ha squillato il telefono e poi mi hanno tenuto un'ora al telefono e non sono più rientrato, dai. No, io sono andato via, poi sono andato a portare il cane e poi sono passando, sono andato sul 23, c'erano Gio Maria e Tori, li ho salutati e me ne sono andato. Avanti tu. Eia. Questo mi è il Superstar 3009 con microfono originalissimo e 747 ovviamente, giusto per farlo lavorare, mi non perché io è serva. Non porta bene Superstar, ma li ha messo attivati. Io? Capo, io ce l'ho, capo, mi danno problemi. Già, dicevi a me, beh qua sono sempre 4 watt modulati, anche non modulati, 4 comunque, e questo pilotandolo basso, io una cosa che non ho capito, il tuo è a transistor e nonostante ciò, nonostante tu gli dia watt bassi, va in saturazione, io non lo capisco come può saturare quello. Allora i transistor sono uguali al mio, il mio ne ha 4, quello ne ha 9, uno fa da pilota e gli altri 8 sono i veri transistor di potenza. Non capisco come faccio a saturare. No, basta, lo satura. Se c'è il power al massimo, sì. Se io lo abbasso, il power lo satura più. Sicuro, se gli dai 3-4 watt massimo, come esce limpido, come questo? E poi la cosa strana già, che quello era fatto apposta per avere più watt in ingresso, se ti ricordi. Era la versione H, o come si chiamava. Era fatto apposta che tu li devi, gli davi tipo 10 watt AM, ma l'ingresso era fatto apposta per ricevere più watt, nonostante ciò saturava. Adesso si satura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo è limpido, ma è posizione quanto, 6? Esatto, però col minimo dei watt. E quanti watt si può dire? Dammi solo la prima cifra. 2 Ottimo, ottimo, allora così va bene, allora siamo arrivati alla... E quindi tu praticamente ne davi di più sperando che... Ok, è così, è buono. E sono tanti, mi. Praticamente tu dovresti aumentare di un Santiago in più rispetto a me. Capito, sempre quadruplicando, no? Se sono i miei 6x4, 24, qui adesso col filtro, io ho sempre il filtro, sono 50, 5x4, 20 e siamo lì, un Santiago in più. Guarda, ora è massimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quello è il massimo. Sì, così satura. E io saturo sono. Prova un po'. 1, 2, 3, prova. Sembrerebbe di no, guarda, se c'è saturazione è anche per la vicinanza, però mi pare di no, però credo io di essere il più limpido di tutti. Sì, gatta, guarda a vedere, com'è il segnale, è aumentato? Sì, Anto, qua di più non va, se di più non va, poi la mia vista ormai non riesco a vedere bene nemmeno da 9,20 a 9,25 a 9,30, è talmente millimetrica, decimillimetrica la cosa qua, e mi devo rimettere gli occhiali per vedere da vicino, è un problema la vista sta diventando. Allora io, Marco, ho fatto le prove, in lontananza messo al massimo non satura niente, perché io ho fatto DX e cose, ho chiesto fuori continente e la lavanda era limpida, capito? In lontananza non distorce con 300, invece qua al massimo ne posso dare 2. E allora è un sovraccarico dell'ALC, capito? Quando ricevi segnali troppo forti un po' satura, bisognerebbe, ecco, attenuare. Va bene. Natalino, quindi Natalino credo che sia peraltro avrà mangiato già pure. Natalino, puoi rispondere almeno, sì no. Sì, già ho mangiato. Dovrebbe essere. Già ho mangiato, non c'è problema. Francesco, un rumore tra voi. Mi sto sempre ascoltando. Se ti interessa lo sto vendendo questo. E qual è? Non lo so qual è, l'RML Italia. Ah, stai dicendo la bestia, ecco, sì, no, credo l'apparato. MR Italy. No, RM. RM Italy, sì. Quello è macchina un bijoumi. Con l'antenna veicolare, 3 Santiago in più rispetto ai 4 watt, è un bijou. Non è buono, macchina. La macchina va bene quello che c'è. Ma io guardo, arrivo da tutte le parti, con quell'antennino volantino va benissimo. No, per me da lasciare sotto il sedile è bello avvitato, fisso. Sì, però bisognerebbe chiedere alla mia bobina dell'antenna se regge il carico. Papà, se ti interessa fammi sapere. Certamente, certamente. Vabbè, io adesso avevo altre mire, però vediamo, dai. Guardiamo quanto costa e ti faccio il prezzo. Mi ricordo anche che quell'estofante del venditore, cosa che non dovrebbe fare, ti aveva tolto la presa di alimentazione, quella verde. Invece, a quanto ne so io, la dovrebbero vendere già con la presa, se no come fai ad alimentarlo? Capito? Loro l'hanno tolto dalla scatola e se lo vendevano separatamente. È una cosa molto scorretta quella. No, tutti, anche, ma lo stava dicendo anche Bulldozer, mi ha detto che anche a lui era arrivato così. Infatti me l'ha data a lui la dritta per ordinare quell'affare lì, perché anche a lui... Però il venditore lo deve specificare, che così come ti arriva non lo puoi alimentare perché è separato il pezzo, è strano. Eppure se vai a vedere le istruzioni dell'RM Italia, lo schema e tutto, vedi già il connettore come che fosse già premontato. Vabbè. E lo fa per farsi soldi in più, questi bastardi. E poi è particolare, visto, è fatto apposta, se no senza quello devi mettere i cavi volanti, non è prudente, capito, poi con quegli amperaggi. Vai Anto. Io gliel'avevo fatto lo stesso l'attacco, va. Era, infatti è pericoloso. Buoni figli un cane. Allora, vediamo una cosa, Natalino, se poi fate la prova tutti e tre, come siete adesso, ammazzatevi l'uno con l'altro, vediamo chi passa, una curiosità mia. Facciamo la brava, dai, non c'è bisogno di fare così. Io, parlate tutti assieme, voglio vedere chi passa, chi spunta almeno di radio. Passa Natalino sicuramente perché è più vicino a te. No, non credo, ma Natalino esce anche come 9 watt, è più pacato, lui esce con 2 watt, ha paura di consumare corrente elettrica. Ma chi passa, e si va, dai. Passa l'altra lì, lo sicuro. Non è vero, non passo. L'aria è più vicino. Anto, parla tu e Natalino, io. Attenzione, cambio, Antonio, sentite. No, giustamente passa Natalino, credo che non ci sia storia, e magari pure con due ratte, più vicino in effetti. Natalino, parlando stava. E passa anche qua Natalino. No, qua passa tanto. Di là tutti. Io sono più lontano di tutti, non passo nessuno. Voi siete tutti là, Latte Dolce, mi pare Santa Maria di Pisa, e poi Gianni un po' più verso... come si chiama la zona tua, dai? Valdedda, là. Mar di Manitta. Sì, grosso modo siete anche abbastanza vicini, dai. Sì, ma io, Natalino, pensavo che ho fatto la battuta. Forse tantino, però pensavo che non stesse parlando Natalino, capito? Non l'ho sentito nulla, non è passato liscio. Sì, ascolta, una volta, negli anni d'oro 80-90, si usava anche il lineare in città, perché c'erano gli altri, ti sopravondulavano per fare battute sopra, ti ricordi? Vabbè, lo facevamo anche noi, nel 2010, roba del genere. Tutti lo facevano. Specialmente quando dovevano prendere in giro la persona, io lo facciamo incazzare, io. È vero. Te lo ricordi? Dai, aiutiamo la tana. Pirati abusivi. O quando entrava qualcuno cotto in radio, tipo Sandokan che cantava, o qualcun altro cotto, e sentivi sopra, accuditi che cozzo. Ma poi ve lo ricordate quel famoso Ruggero Lupo? Sì, è una bandetta la. Ma era strano forte, non era normale, no? Oh, diceva, dove più rumo vai che ora di andare al lavoro. Cazzo, ma io la male del buio, mi rompeva così le palle. E io modulavo la sera ora di andare al lavoro e qui dovevo scappare. E lui stava sempre rompendo, mancano 10 minuti, vai a prepararti, e so che è caduto dalla finestra, però non so se si era salvato, l'avevo portato via l'ambulanza, no, non era giusto. Sì, perché era un po' rompiscatole, un po' a livelli di Paoletto, mi sembrava un po' strano, non era un normale comportamento. E un po' ci l'hanno lampato gli altri cibi dalla finestra. No, non è caduto da casa sua, a casa sua è caduto. Io mi trovo via Bandella, poco prima quel palazzo che c'è prima del San Martino, lì dove c'è anche la cartoleria. Che bella nostalgia però di quegli anni là, a parte che ero ragazzino, ero giovane, se si potesse tornare indietro, a 27, qui non esistevano i social, non esisteva il computer, c'era malapena la TV e la radio, AM, FM, e i telefoni fissi, e perciò c'era mezzo assassino al baracchino, già rido se c'è qualche catombe di guerre, praticamente crollano tutti i cellulari e internet, immagina se crolla internet, noi siamo di pochi a poter comunicare, allora tu ti rivedrai tutti interessati ai baracchini di nuovo. La fila, te la ricordi, le cabine telefoniche per telefonare alle ragazze? Una volta mi era successo che telefonando a un amico c'è stata un'interferenza e sentivo queste due ragazze parlare, no? E ho cominciato a fare lo scemo, poi lo sai che ci hanno dato l'appuntamento in Piazza Castello, l'abbiamo conosciuto. Sì, anche così si faceva. Si faceva un po' lo scemo, poi certe se ne andavano incavolate o muriate, certe invece si divertivano e poi si stavano, le conoscevi, eccetera. Sì, eravamo conosciuti e Marco, due tipi. Vabbè, se ti racconto quello che era successo. Ah, con questi due tipi ci siamo messi insieme, Marco. Questi due tipi lavoravano da questa signora, una faceva la babysitter e l'altra erano due sorelle. E una lavorava con la babysitter nella stessa casa e l'altra invece faceva, cucinava, faceva le pulizie, faceva la colfo. E un giorno siamo andati a prendere, ci eravamo messi insieme. siamo andati a prenderle, loro come ci hanno visto sono scesi giù per vederci incontro, cazzo, si è chiusa la porta, è rimasto il bambino chiuso dentro, cazzo. Allora aiuto, aiuto Gianni, salite, salite dal palo, e noi ce ne siamo scappati. Mi pigliavano per ladri, mi impallinavano al volo. Ecco per me che volo. Ce ne siamo scappati. Ecco per me, ci sentiamo, ok. Ciao tu, ciao, ci sentiamo. Marco, ce ne siamo scappati, l'hanno due licenziati. Oh, yeah. Poveracce. No, ma poi se arrivate sul palo magari qualcuno vi pigliava per ladri, vi impallinava al sedere al volo. Ah, poi al terzo piano avevo una cosa della Tarumbal, c'era il pluviale, però magari sale sul palo, si bronca e ti ammazzi, ma vai vai, o cadi, cazzo. No, poi non ero una scimmia a salire sul terzo piano, non ero così viridiei, non ero così atletico. E niente, ho dovuto chiamare i vigili del fuoco per aprire la porta. Poi mi ha casino, tornata alla principale, ho fatto questo casino, si è spaventata, l'ha mandato via malamente. Mi propagazione sta dicendo questo, l'hai sentito? Attento, attento mio hermano, se va a scusare l'isola della Sardegna, adelante, ve lo comprendido. Hola, hola España, copy Sardegna Islands, Italia, cambio. E magari un questo locale anche lì. Chissà che sta rispondendo. Prova, prova. Attento mio hermano, se va a scusare la Sardegna Italia, che va chiamando. Sì, è Mr. Messenger, Mr. Messenger, hai escuché, però hai salito anche di lì, decía, dile che no, dile che no. Sono tra di loro sicuramente. Però si sentono benino, dai. Tu mi senti più bene? Sì, in realtà a Santiago 6 mi arrivava il tipo, e boh, ma c'era un po' di buriana sotto. Via, sì, sì, così. Così, quando c'è propagazione niente di tutti, poi specialmente qua, in questa zona qua che è di fronte al mare, sai come senti tutti bene? Sì, è un bijou, fa da specchio. Infatti dov'era Coso, dov'era Sandro Tigre, lì piacerebbe molto a me. È che il vento ti butta ogni tipo di antenna, è terribile lì. Vediamo se c'è ancora... mamma mia. Ma lo sai quanto costano le case lì? E avevamo chiesto perché la mia ex moglie voleva andare lì a abitare. E abbiamo chiesto quanto costava, 270.000 euro. Vai, du. Ecco, Manuele ci sei ancora, c'è rientrato? Vabbè. Sì, comunque è una buona posizione lì, c'è il mare che fa da specchio, è che il vento, mamma mia, il vento lì è tremendo. Credo che non ci sia antenna che regga. A meno che non usi accorgimenti particolari, tirantare, non sapregia. No, non è questione di vento, ma è questione dell'assassino che ti rimane a tutti i chili. Oltre a avere il panorama, ci sono i pro e i contro. L'assassino ti mangia tutto, gli infissi, tutto. Quindi ne risente anche l'antenna, l'alluminio dell'antenna, eccetera. Guarda, io ho sentito di un prodotto praticamente era gomma spray, credo fosse nera. Tu potevi montarti un'antenna CB bene e poi dalla punta tutto ricoprirla con questo spray in gomma. E così era completamente isolata da pioggia, salsedine, smog e tutto. Però se poi deve intervenire la devi togliere con una lametta, incidere e poi sbucciare l'antenna, credo. È un casino. Guarda, se tu vuoi isolare un'antenna basta che gli passi la vasellina in tutta l'antenna e la isoli. Ed è molto più pratica perché la vasellina la togli con uno straccio, è facile la togli. Ma metterci questa gomma qua, se devi lavorare sull'antenna è un casino. Eh sì, se parte una saldatura cosa la devi sgommare, almeno il punto che ti interessa. Che altro? Aspetta. altre soluzioni. Tu mi hai detto la vaselina, però ho paura che col caldo estivo, cioè che con quel sole rovente, che cola tutta e se ne scende dall'antenna. Sì, quello è reso appunto che succede così, tra ripassi, ripassi di grasso, quello che vuoi, però non mai. C'è anche un tipo di grasso che però non te lo consiglio perché mi sono tutto impiastrato, io guarda, una volta che l'ho dovuto lavorare su pelle mi sono fatto a porco, tutto impiastrato. C'è un grasso particolare che si passa sulle antenne, si chiama grasso, adesso non mi viene il nome, però ce l'ho il tubetto, te lo faccio sapere come si chiama, perché l'avevo passato un po', me l'era avanzato, però non te lo consiglio perché è bianco e ti sporca tutto. Ma cosa può contenere? Rame? Cosa può essere? Qualche graffitato non è, non ha senso, non è quello. Grasso antinduttivo. Eh? Grasso antinduttivo. Ma i componenti cosa ci metteranno dentro? Boh, vabbè. Però sporca un bel, vabbè, se uno deve mettersi allora di quelli guanti, di quelle tutte usa e getta per verniciatori, no? Allora a me me l'aveva consigliato come si chiama, quello che c'era vicino a casa tua, che c'aveva l'officina e adesso fa la guardia giurata. Gianfranco, Giancarlo, non mi ricordo. Archimede. Cosa aveva prima? Un negozio di un'officina. E dove c'aveva l'officina? Officina meccanica di macchine. No, c'aveva un laboratorio vicino a casa tua. La parallela di casa tua, dove c'è la prima scarpa di fronte. Se tu guardi c'è un'antenna lì sempre. Sì, sì, mi ricordo, sì, quel giardinetto lì, ci sono degli alberi, c'era questa antenna, era una Ringo, però a quanto ho capito non era per le 27, forse era per i 50 MHz. Mi ricordo, sì, sì, sì, è vero. Ma l'aveva consigliato lui che piazzava antenne, e mi ha detto quello lì lo metti nel PL, tutto attorno al PL, te lo isola di modo che non entri acqua. Sì, ho fatto così, in effetti PL è rimasto bello lucido, però quando sono andato a svitarlo mi sono impiastricciato tutte le mani, mi sono imbrattato la tuta che avevo messo nuova, cazzo, mi ha fatto, vabbè, me ne è uscita quella valvola, però intanto nel momento me l'avevo appena messa, cazzo, anche io faccio i lavori con le cose appena messe, pulite. Sì, ci sarebbe voluta quella roba, quelle tutte per verniciatori, bianche, guanti usagetta, eccetera. Io vabbè, ho sempre preferito l'autoagglomerante, però lo puoi mettere solo nelle giunzioni, nei punti chiave, tipo PL, tra un elemento e l'altro dello stiro e basta, però direi che puoi fare miracoli. E prima o poi cede anche quello, perché d'altronde sto nastro agglomerante è gomma, col calore, se tu immaginati tanti mesi di freddo gelo in punta al palazzo, perché noi una cosa è essere a altezza strada, una cosa è essere in punta al palazzo dove magari gela di notte, e poi un periodo lungo di tanti mesi di caldo estremo, quindi si spacca prima o poi quella gomma lì, si rovina e l'acqua passa, prima o poi passa. Penso che nella mia stia succedendo una cosa del genere. Però vedi, a maggio farà 2014, 2024, a maggio compie 10 anni questa antenna, non vale 2 lire, te l'ho detto, durerà 3 anni, ho detto, si ripagate, invece ancora, tiene banco, dai. E vuol dire che è stata piazzata bene, Marco, quello vuol dire molto, e guarda che io con Franco Carifuna abbiamo piazzato l'ultima antenna che c'ho, la LEM, e gli abbiamo messo il vulcanizzante nelle aggiunture e poi un giro bello fatto di nastro. Beh, di solito il nastro esce sempre subito dopo, no? Beh, questo nastro è ancora attaccato, immaginati tu che tipo di nastro è. Sì, sì, c'è il nastro, certi nastri si staccano col minimo vento e svolazzano via, ma certi sono fatti bene. Infatti bisogna comprare anche roba un po' di marca, roba tenace, con quegli adesivi tenaci, che una volta che lo metti resta lì. Allora, l'ho preso da Fusaro questo nastro qua, e ti dico che ha molta colla questo nastro, ma al contrario di altri che se tu di tu che appena agondito se ne esce la colla non attaccano più, questo qui c'ha molta colla, quando tu lo tiri si incolla bene, proprio si attacca bene. Ehi, ha una marca, mi ricorda una marca, un nome dell'est mi pare, forse l'ho avuto anch'io quello. Comunque per le antenne ho preferito sempre l'autoagglomerante, al limite il nastro, sai perché lo mettevo sopra l'agglomerante? Per dar tempo all'agglomerante bello di aggrapparsi, poi il nastro se ne poteva anche volare via. E quello lo fanno tutti, anche io lo faccio per quello, per fare attaccare, aderire bene il vulcanizzante, ma questo antiagglomerante chi lo usa? Usano tutti il vulcanizzante, boh. Io non lo conoscevo nemmeno questo antiagglomerante, te l'ha fatto conoscere Alessio. No, che poi il vulcanizzante agglomerante credo che sia lo stesso. C'è un nastro che si mette a freddo, lo tendi appena appena e lo sovrapponi per la metà un po', sempre tendendolo un po', e poi stringe proprio come un guanto, credo che sia lo stesso, agglomerante, vulcanizzante, sempre quello, non richiede l'uso né di calore, per esempio non è un termoretraibile, non è adesivo di suo, non ha colle, fa tutto lui, basta tenderlo e passarlo sovrapponendolo, loro dicono per almeno metà, no? È tutto lì. Allora, io pensavo fosse un'altra cosa, perché c'è anche un altro tipo di nastro che è il grigio, che si usa anche per le marmitte, questa roba qua, per tappare i buchi delle marmitte, i buchi dei tubi, eccetera eccetera. E io il nastro vulcanizzante lo uso così, metto praticamente il vulcanizzante, lo stringo con la mano di modo che gli faccia arrivare del calore e dopo gli metto il nastro bello stretto, parto da sopra e poi lo giro tutto attorno e lo faccio scendere oltre dove ho messo il vulcanizzante, quindi di modo che se lo aggrappi bene. Sì, esatto. Soprattutto sulle giunture dei tubi dell'antenna, no? dei pali, lì non è che devi fare la striscetta orizzontale, lì parti un po' da più basso, vai su, bello, arrivi al punto chiave dove vai abbondante, risali un po' oltre, certe volte tornavo anche indietro, se ritornavo indietro gli facevo il secondo giro, e insomma da. E comunque di queste antenne hanno avuto anche problemi indipendenti dall'impermeabilizzazione, tipo la saldatura che va dalla bobina allo stilo partita, quella lamellina sottile che c'è, interrotta, rotta, non so se per trazione del vento, ok, e lì non c'entrava l'acqua, quindi qualcuno l'ha buttata dopo pochi mesi quell'antenna lì. E qua diciamo a me è andata bene per ora, certo non è più perfetta come nuovo, poi sarà anche ossidata, mi già, tu vuoi che 10 anni di smog, di piogge, di schifezze varie, di fumi non l'abbiano fatta sicuramente è tutta nera sopra, avrà perso anche, si sarà rovinato anche lo strato dell'anticorrosione, no? Vabbè. No, vabbè, comunque se non ti da stazionare non è ossidata. Quando è ossidata ti comincia a dare stazionare, comunque bisognerebbe scenderla, pulirla e basta, con la lava d'acciaio. Io l'ho pulita con cerici, lo mettevo cerici sulla lava d'acciaio e poi le lo passavo, poi li passavo lo straccio, usciva tutta la roba nera. Eia, esce un bel di roba nera. Per esempio questa, nonostante noi abbiamo seguito il libretto, che ne so, in base alla posizione, alla lunghezza del cavo, è risultata sempre il centro banda più perfetto era 20 canali sotto l'1, capito? Era un po' elettricamente lunga, 20 canali, anche 30 canali sotto l'1, c'era proprio il centro banda perfettissimo. Mi sarebbe piaciuto accorciarla di qualche centimetro sempre seguendo il manuale, tanto fai il calcolo, no? Puoi salire di 200 kg e tagli tot centimetri, però andrebbe portata giù, oh no no no, perché tanto in terra poi, non è che la puoi, se no dovessi smontare e togliere l'agglomerante, no no, quella è meglio che muoia lì, quando morirà del tutto forse si cambierà, forse. Io comunque la Venom da parte ce l'ho, una Venom giusto mezz'onda, la volevo mettere in campagna, ma ancora non sono riuscito a convincere, come si dice, il maresciallo. Antenna di caucciù comprati, come quella mia, Marco, così passi a tutti. Guarda, questa è in gutta perca, questa è fatta in gutta perca, se sapete cos'è. Invece la Venom è fatta in, come si chiama, in micarta, sapete cos'è, erano quei manici economici dei coltelli ed erano proprio fatti, impasti fatti da carta e resine per simulare un po' il legno, là, per fare le impugnature per i coltelli dei poveri. Sì, allora, io non me li faccio così i coltelli, i manici faccio di micarta. Invece la gutta perca veniva usata dagli americani negli anni, credo, 40-50 per fare le operazioni dei denti ed è una specie di sostanza a base di gomma e non so quale altre schifezze per farla un po' cristallizzare. Sì, vabbè, io comunque c'ho l'antenna di caucciù. Caucciù. Come dicevamo ogni tanto, l'antenna di plastica. Sì, caucciù. E a chi non andava? Senza radiali, senza niente, cazzo, troppo dove? Marco! Voi. Dai, io vi saluto, devo portare giù il cane, ci sentiamo, ciao a Tarino, ciao anche a Antonio, se c'è l'ascolto, Emanuele e via dicendo. Ciao a tutti, mi lo senti, mi sta chiamando per andare, ciao. Ciao, ciao. Ciao Gianni, buona passeggiata col cucciolone, dai. E quindi caro Natalino, per adesso ti sei salvato dal tubo, no, perché quando è venuto quel medico a farla a me è arrivato con questa cannula d'acciaio lunga mezzo metro e io, oh santa mamma Maria, e lì stringi i denti, guardi altrove, non devi nemmeno guardare perché se guardi fa più male, anzi ti dirò, non ho guardato nemmeno lo schermo, che loro ci hanno un monitor, no? E vedi l'immagine tonda, circolare, tipica del sondino, no? Sì, vabbè, non me l'ha fatto perché per farmelo bisogna che mi ricoveri, capito? La tipa. Oh, un po' delicato, vabbè. Vabbè, il mio caso era... perché sai perché? Perché lì devono prelevare forse un campione o fare l'ago aspirato, e lì è un po' più delicata la cosa, da. Sì, allora. No, ha detto che taglia tutto. Buonasera a tutti. Così tagliamo direttamente. Ieri l'ha fatto per favore a quell'amico mio, medico mio. Quello lì è psichiatra infantile e lavora lì. Praticamente lei era di guardia e me l'ha fatto così in frosa. È buono, dai, tanto di guadagnato. Allora è un esame in più che hai fatto. Meglio saperlo. Comunque questi dolori ti vengono anche un po' improvvisamente, così, ma è un dolore, descrivimelo come, un bruciore, oppure un dolore pungente o un dolore sordo, com'è? Dolori forti, non è che bruciano, è un dolore, mi viene al basso il ventre. Sto dicendo, cazzo, a pezzi, non so se vuol dire a pezzi, no? Guarda, io avendo superato una certa età e comunque le avvisaglie c'erano prima, io dovrei controllare la prostata, però ho paura a controllarla. Noi maschietti abbiamo questa cosa a rischio, la prostata aveva dato già qualche avvisaglia, un po' di infiammazione, qualche traccia di calcificazione e quindi sappiamo già che in futuro darà problemi. E che te devo dire? Togliamo tutto quanto, anche davanti, tutto. Io mi chiamerò Marta e tu Natalina. E infatti. Condivide qualcosa di più. Lui è. Sentendoci. E cosa vuoi fare? Questo tempo libero. Siamo nati per soffrire. vediamo che ci arrivo a prendermi la prima pensione almeno, che per avere la soddisfazione di prendermi la pensione. Prendersela, spendersela tutta prima dell'exitus. No, vabbè, sarà mattina, già ne prenderai pensioni ancora per molti anni a venire, alla faccia degli altri. Io ti sento, Marco, io ti sento. Guarda, per come sono messo, di tutti i colori me ne fanno. Sembro bestemmiato. Ha detto, sembro bestemmiato. E allora, di tutti i colori me ne stanno succedendo. Guarda, così la pensa Ivan. Secondo lui tutti i malanni che gli stanno venendo sono le maledizioni che gli mandano. E si è fatto anche la prova dell'occhio. Ha detto, ma non si può credere a queste cose, io sono credenze, gli ho detto, sono credenze popolari. Poi è chiaro che se uno va a fare la prova dell'occhio, c'è un sospetto, e quella ovviamente gliela fa risultare positiva chi la fa. Chi la fa vuol dire che sospetta qualcosa, caso strano è sempre positiva. Tutte menate sono credenze popolari, lasciamo perdere. Poi gli ho detto, non si può mischiare, siccome lui è credente, non puoi mischiare religione e superstizione, sono due cose che non vanno d'accordo. Sì, sono credente. Guarda, se, allora, visto che sei credente, se te la vuoi prendere con qualcuno, prenditela col principale, quello seduto in alto sulle nuvole, è sua la colpa di tutto quello che ci accade. Sì, non penso che sia così cattivo da farmi queste cose, ma lui... sono demoralizzato al massimo. Vabbè, prima si fanno i controlli, poi si vedrà, poi ci avrai tempo per demoralizzarti o per tirare un sospiro di sollievo. Già lo so. Comunque domani deve andare mia moglie dalla dottoressa per farmi l'impegnativa per questa Eurotac. È doverosa l'unità popolare. No, quella non la conoscevo, cioè è sempre comunque esterna, no? È per forza esterna, però vede bene. E beh sì, perché l'ATAC, guarda, è molto più definita dell'ecografia. L'ecografia vedi un po' così, vedo non vedo. L'ATAC è perfetta, ti fa vedere tutto. Se fosse risonanza magnetica meglio ancora, e soprattutto hai meno radiazioni, perché l'ATAC sono raggi X, mentre la risonanza magnetica sono più che altro onde sì, elettromagnetica, ma non raggi X, ecco. Io capisco, adesso vediamo un po', e poi ne devo fare una per quella aneurisma che ho di TAC. Speriamo. Militare e civile, ruolo nella liberazione. Quella l'Urotac che chiede il favore, quell'amico mio medico, a vedere se me la fanno. Se no siamo rovinati che non sono tutti. Comunque Natale, io l'avrei chiesto allo stallo invalidi, proprio di fronte a casa. Perché già andare al parcheggio lì, cioè può essere impegnativo al parcheggio lì. Vabbè, se ne hai diritto l'avrei chiesto. E lo so, adesso vediamo. Prima raga mi paghi i cingosi. La fine del fascismo fu delle basi della... Vediamo un po' se riusciamo a risolvere questa storia. Come abbiamo visto era l'altare della patria. Eia, credo che non sia rimasto nessun altro, e quindi Natali, da vista l'ora, che ora sono? Le 8 e un minuto, può essere. Dai, io adesso mi organizzo per la cena, qualcosa mi inventerò. E poi altre cose, dai, ok. Ciao, buona serata, buon tutto e ci sentiamo. E altrettanto Marco. Le 8 e 4 minuti io. Ci sentiamo alle prossime, dai. Sì, anche se qualcuno è rientrato, dai, che poi Emanuele è sparito, Antonio è andato a mangiare, mi pare, o cosa sta facendo, dai. E un saluto agli ascoltoni anche. Ciao a tutti, ciao.